Terzo anello ad alta voce. Lord Jim di Joseph Conrad. Vi ho raccontato questi due episodi in tutti i particolari per mostrarvi il comportamento che aveva adottato nelle sue nuove condizioni di vita. Ce ne sono molti altri come questi, più di quelli che potrei contare sulle dita delle due mani. Erano tutti ugualmente suggeriti da intenzioni assurdamente nobili, il che rendeva profondamente toccante la loro sublime inutilità. Gettar via il pane quotidiano per avere le mani libere di lottare contro un fantasma può essere un atto di prosaico egoismo. Altri l'hanno fatto prima di lui, anche se noi che abbiamo vissuto sappiamo bene che non sono le ossessioni dell'anima, ma le privazioni del corpo a fare di un uomo un reietto. E chi aveva la pancia piena e non era affatto disposto a morire di fame ha applaudito questa lodevole follia. Fu veramente sfortunato, perché neppure la sua grande audacia riuscì a sottrarlo a quell'ombra. Sul suo coraggio restava sempre un dubbio. E in verità sembra impossibile placare il sospetto di un fatto. Si può affrontarlo e evitarlo. E io ho conosciuto uno o due uomini che a tali visioni familiari riuscivano persino a strizzare l'occhio. Evidentemente Jim non era fatto di questa pasta. Ma quello che non sono mai riuscito a capire era se la sua condotta consistesse nell'evitare lo spettro o nel combatterlo a viso aperto. Dopo una lunga e intensissima riflessione scoprii che, come avviene del resto per tutte le altre azioni dell'uomo, la differenza era così sottile che era impossibile coglierla. Poteva essere una fuga, poteva essere un modo di combattere. Nell'opinione comune Jim era considerato un tipo irrequieto, perché questo era l'aspetto più buffo della questione. Dopo qualche tempo acquistò una certa notorietà e a volte persino una cattiva nomea nel cerchio delle sue peregrinazioni, che aveva un diametro, diciamo, di 3.000 miglia, nello stesso modo in cui un personaggio eccentrico diventa famoso in un paese intero. Per esempio a Bangkok, dove aveva trovato impiego presso la Yuker Brothers, una ditta che operava nel campo dei moli marittimi e del commercio del tech. Era quasi patetico vederlo girare in pieno sole chiuso a riccio nella difesa del suo segreto, che invece era noto anche ai tronchi d'albero che dall'interno scendevano a valle lungo il fiume. Lo portai via da Bangkok con la mia nave e fu un passaggio piuttosto lungo. Faceva pena vedere come si rinchiudesse in se stesso. Un uomo di mare, anche se passeggero, si interessa sempre alla nave e osserva la vita di bordo che lo circonda con lo stesso godimento critico con cui, per esempio, un pittore guarda il lavoro di un collega. È in ogni senso sul ponte. Ma il mio Jim, per la maggior parte del tempo, bighellonava sotto coperta, come se fosse stato un clandestino. Mi contagiò, tanto che evitai di parlargli di questioni professionali, come sarebbe stato naturale fra due marinai durante un viaggio. Per giorni interi non scambiammo una parola. Spesso, quando eravamo soli sul ponte o nella cabina, non sapevamo da che parte volgere gli occhi. Come sapete, lo mandai presso De Jong, alquanto soddisfatto di averlo comunque sistemato e tuttavia convinto che la sua posizione stesse ormai diventando intollerabile. Aveva perso parte di quell'elasticità che, dopo ogni rovescio, gli aveva consentito di tornare alla sua posizione intransigente. Un giorno, arrivando a terra, lo vidi in piedi sul molo. L'acqua della rada e del mare aperto formavano un unico piano liscio e ascendente, e le navi, all'ancora più a largo, sembravano sospese immobili nel cielo. Attendeva la sua barca, che in quel momento veniva caricata ai nostri piedi con pacchi di piccoli negozi, destinati a qualche bastimento che si preparava a partire. Dopo uno scambio di saluti, rimanemmo in silenzio, fianco a fianco. «Per Giove!» disse lui improvvisamente. È un lavoro che mi fa impazzire. Thank you. Mi sorrise. Devo dire che in genere sapeva trovare un sorriso. Io non risposi. Sapevo benissimo che non alludeva alle sue mansioni. Con De Jong se la passava bene. Ciò nonostante mi convinsi fermamente, non appena ebbe parlato, che quel lavoro lo faceva veramente impazzire. Non lo guardai neppure. Vorrebbe, chiesi, abbandonare del tutto questa parte del mondo, tentare in California o nella costa occidentale. Vedrò che cosa posso fare. Mi interruppe un po' sprezzante. Che differenza farebbe? Compresi subito che aveva ragione. Non avrebbe fatto alcuna differenza. Non aveva bisogno di una vita tranquilla. Credo di aver vagamente sentito che ciò di cui aveva bisogno, ciò che in un certo senso stava aspettando, era qualcosa di non facile da definire, qualcosa che assomigliasse a un'occasione. Io gliene avevo offerte parecchie, ma esse erano solo opportunità per guadagnarsi da vivere. E tuttavia, cos'altro può fare un uomo? Capii che la sua situazione era senza via di uscita e mi tornarono alla mente le parole che Brierly: «Se ne vada per 7 metri sottoterra e ci resti!» Meglio questo, pensai, che questa attesa dell'impossibile sopra la terra. E tuttavia non si poteva essere sicuri neppure di questo. Lì per lì, con la sua barca ancora vicinissima al molo, decisi che quella sera sarei andato a chiedere un parere a Stein. Questo Stein era un commerciante ricco e rispettato. La sua ditta, perché era una ditta la Stein & Company, e aveva una specie di socio che, come egli diceva, si occupava delle Molucche, svolgeva una vasta attività fra le varie isole, con diverse stazioni commerciali nei luoghi più remoti per la raccolta delle diverse derrate. La sua ricchezza e la sua rispettabilità non costituivano il motivo principale per cui ero ansioso di sentire la sua opinione. Desideravo confidargli la mia difficoltà, perché era uno degli uomini più degni di fede che avessi mai conosciuto. Il suo viso lungo e glabro era illuminato da una leggera luce di bontà, per così dire semplice, inesauribile e intelligente. La faccia era solcata da profonde rughe ed era pallida come quella di coloro che hanno sempre condotto una vita sedentaria, il che nel suo caso era ben lontano dalla realtà. Aveva i capelli fini e pettinati all'indietro in modo da lasciare scoperta la fronte alta e massiccia. Veniva da pensare che a 20 anni il suo aspetto dovesse essere molto simile a quello che aveva ancora adesso a 70. Aveva una faccia da studente, solo le sopracciglia folte, cespugliose, quasi completamente bianche, sotto di esse il suo sguardo risoluto e penetrante, non si conciliavano con queste sembianze, diciamo così, accademiche. Era alto ed inoccolato. La leggera curvatura delle spalle, unita all'innocente sorriso, gli dava l'aspetto di un uomo pronto a darvi benevolmente ascolto. Lo descrivo minuziosamente perché sotto un'esteriorità bonaria quest'uomo possedeva, insieme con una natura onesta e tollerante, uno spirito indomito e un coraggio fisico che si sarebbero potuti definire temerari se non fossero stati, come le funzioni naturali del corpo, per esempio la buona digestione, del tutto inconsci. Di un uomo si dice talvolta che tiene in pugno il proprio destino. Questa immagine sarebbe stata inadeguata se applicata a lui. Durante la prima parte della sua vita in Oriente, con il proprio destino, aveva giocato a palla. Tutto questo era avvenuto nel passato, ma io conoscevo le sue vicissitudini e le origini della sua fortuna. Era anche un naturalista di una certa rinomanza, o per meglio dire un colto collezionista. Suo speciale oggetto di studio era l'entomologia. La sua raccolta di bustrepide e di cerambicidi, tutti i tipi di scarabei, orribili mostri in miniatura che avevano un aspetto malevolo nell'immobilità della morte, e la sua esposizione di farfalle che si libravano bellissime con le loro ali senza vita sotto le vetrine che le proteggevano, ne avevano diffuso la fama in tutta la terra. Il nome di questo mercante avventuriero e un tempo consigliere di un sultano malese, al quale non alludeva mai se non come al mio povero Mohamed Bonzo, era diventato noto grazie a qualche teca di insetti morti ai cultori di quella disciplina in Europa, i quali non avrebbero mai potuto immaginare, né si sarebbero preoccupati di prendere informazioni in merito chi fosse o quale fosse il suo carattere. Io che lo conoscevo, pensai che fosse la persona più adatta ad ascoltare le mie confidenze sulle difficoltà di Jim e sulle mie. Nella tarda serata entrai nel suo studio, dopo aver attraversato una sala da pranzo imponente ma vuota e scarsamente illuminata. La casa era silenziosa. Fui preceduto da un anziano e arcigno domestico giavanese, con una specie di livrea formata da una giacchetta bianca e da un sarong giallo, il quale, dopo aver spalancato la porta e aver detto a bassa voce «Oh, padrone», si mise da parte per farmi passare. E svanì misteriosamente, come se fosse stato un fantasma evocato solo per qualche minuto per svolgere quel particolare servizio. Stein si girò sulla sedia e nel fare quel movimento sembrò che gli occhiali gli fossero saliti sulla fronte. Mi diede il benvenuto con la sua voce quieta e arguta. Solo un angolo della vasta sala, quello in cui si trovava la scrivania, era fortemente illuminato da una lampada da studio con un paralume. Il resto dell'enorme ambiente si fondeva in una tenebra senza forma, come una caverna. Stretti scaffali pieni di scatole scure, tutti uguali per foggia e colore, correvano lungo le pareti, che non erano coperte per intero, ma solo per una striscia cupa della larghezza di poco più di un metro. Erano le catacombe degli scarabei. Al di sopra erano appese tavolette a intervalli regolari. La luce arrivava fino a una di loro e la parola Coleoptera, scritta a lettere d'oro, brillava misteriosamente in quel grande spazio oscuro. Le teche di vetro contenenti la collezione di farfalle erano disposte in tre lunghe file su tavolini dalle gambe esili. Una di queste teche era stata rimossa dal suo posto e si trovava sulla scrivania, che era cosparsa di striscioline oblunghe di carta, scritte con calligrafia minuta. «E così viene a trovarmi. Così», disse. Teneva una mano sospesa sulla teca, dove una farfalla, nella sua solitaria grandezza, stendeva le scure ali di bronzo per una lunghezza di più di 15 centimetri, con squisite venature bianche e un vistoso bordo di macchie gialle. «C'è solo un esemplare come questo nella sua Londra, e non ce ne sono altre. Lascerò questa collezione alla mia cittadina natale. Qualcosa di me. Il meglio». Senza alzarsi dalla sedia si chinò in avanti a guardare attentamente, appoggiando quasi il mento sulla lastra di vetro. Io rimasi in piedi alle sue spalle. «Meraviglioso!» sussurrò, quasi dimenticandosi della mia presenza. Il solo sentire quello che lui mi avrebbe detto sarebbe stato un sollievo. Ero molto in ansia, ma rispettai l'intensa e quasi appassionata attenzione con cui guardava la farfalla, come se sulla bronzea lucentezza di quelle fragili ali, nelle sue linee bianche, nei suoi vistosi disegni, riuscisse a vedere altre cose, un'immagine altrettanto deperibile e al tempo stesso imperitura quanto quei tessuti delicati e senza vita, che esibivano uno splendore non deturpato dalla morte. «Meraviglioso», ripeté guardandomi. «Guardi la bellezza, ma non è ancora niente. Guardi la precisione, l'armonia così fragile, così forte, così esatta. Questa è la natura, l'equilibrio di forze colossali. Ogni stella è così, ogni filo d'erba cresce così. E il possente cosmo in perfetto equilibrio produce questo miracolo. questo capolavoro della natura, l'artista supremo. Non ho mai sentito un entomologo esprimersi così. Sorridendo si appoggiò allo schienale e si stirò le gambe. Si sieda, disse. Era una mattinata bellissima quando ho catturato io stesso questo raro esemplare e ho provato una grande emozione. Lei non sa che cosa sia per un collezionista catturare un esemplare così raro. Non può capire. L'opera, cominciò improvvisamente, indicando le striscioline sparse con il suo tono consueto, dolce e cordiale. Sta facendo grandi progressi. Io stavo descrivendo questo raro esemplare. Nine. È lei? Che buone notizie mi porta. A dirle la verità, Stein, dissi, facendo uno sforzo che mi sorprese. Sono venuto per descriverle io un esemplare. Farfalla? Chiese prontamente con un tono di ironica incredulità. Niente di così perfetto, risposi, sentendomi di colpo riassalire da ogni sorta di dubbi. Un uomo. «Ah, così!» mormorò, e l'espressione sorridente che vedevo rivolta verso di me si fece seria. Quindi, dopo avermi guardato per un po', disse lentamente: «Bene, sono un uomo anch'io!» Questo era Stein. Sapeva dare un incoraggiamento così generoso da far nascere perplessità in chi aveva una moderata fiducia, ma la mia esitazione, se ci fu, non durò molto. Mi ascoltò con attenzione fino alla fine, seduto con le gambe accavallate. A volte la sua testa spariva completamente in un grande sbuffo di fumo e da quella nuvola usciva un grugnito di simpatia. Quando finì, raddrizzò le gambe, depose la pipa e con aria di grande serietà si piegò verso di me, con i gomiti appoggiati sui braccioli della sedia e le punte delle dita riunite insieme. «Capisco benissimo. Un romantico!» Aveva fatto una diagnosi perfetta di quel caso e dapprima fui sorpreso dalla semplicità della spiegazione. Quel colloquio assomigliava a tal punto a un consulto medico. Stein, con il suo aspetto di scienziato, seduto su una sedia davanti a una scrivania ed io in ansiosa attesa di fronte a lui, ma un po' di lato, che mi sembrò naturale domandargli: «C'è qualche rimedio?» Alzò il suo lungo indice. «Ce n'è uno solo. C'è un'unica cosa che può guarirci dalla malattia di essere ciò che siamo.» Il dito scese sulla scrivania con un colpo rapido. Il caso che prima aveva fatto apparire così semplice divenne ancora più semplice e assolutamente disperato. Ci fu una pausa. «Sì», dissi, «più precisamente, la questione non è come guarire, ma come vivere.» «Sì, questa cosa terribile è molto buffa. Nascendo l'uomo si trova immerso in un sogno, come se fosse finito in mare. Se annaspa alla ricerca dell'aria come fanno gli inesperti che cadono in acqua, nega. Nel far? No, glielo dico io. La salvezza è nell'assecondare la violenza dell'elemento distruttivo piegandosi ad essa, e con gli sforzi delle mani e dei piedi nell'acqua far sì che il mare profondo, profondo, ci tenga a galla. E allora lei mi chiederà come essere. Eppure è vero, immergersi nell'elemento distruttivo. Parlava con voce sommessa, senza guardarmi, tenendosi il viso con ambedue le mani. Era quella la salvezza. Seguire il sogno, seguire sempre il sogno. E così, eternamente. Usque an finem. Quella sua bisbigliata convinzione sembrò aprirmi davanti una distesa vasta e indistinta, come un orizzonte crepuscolare su di una pianura all'alba. O forse era l'arrivo della notte. Mancava il coraggio di decidere. Ma era una luce affascinante e ingannevole che copriva con l'impalpabile poesia della penombra le insidie del terreno, le tombe. La sua vita era iniziata nel sacrificio, nell'entusiasmo per le idee generose. Aveva viaggiato molto in vari modi, in regioni insolite, e aveva perseguito ogni meta senza esitazioni, e quindi senza vergogna e senza rimpianto. In questo aveva avuto ragione. Quella era la salvezza, senza dubbio. E tuttavia, nonostante tutto, la grande pianura in cui gli uomini vagavano fra tombe e insidie rimaneva desolata sotto l'impalpabile poesia della sua luce crepuscolare, con l'ombra al centro e un cerchio esterno di luce fortissima, come se fosse circondata da un abisso di fiamme. Quando infine ruppe il silenzio, osservai che nessuno era più romantico di lui. Scosse lentamente la testa e quindi mi diede uno sguardo paziente e inquisitore. Disse che era una vergogna. Restavamo lì seduti a parlare come due ragazzi, invece di mettere insieme le nostre idee per trovare qualcosa di pratico, un rimedio pratico per il male, per il grande male, ripeté con un sorriso indulgente e divertito. Ciò nonostante, la nostra conversazione continuò a rimanere astratta. Evitavamo di pronunciare il nome di Jim, come se cercassimo di tenere la realtà al di fuori della nostra discussione, oppure come se egli non fosse altro che uno spirito vagante, un'ombra in pena e senza nome. «Nein», disse Stein alzandosi, «oggi lei dormirà qui, e domattina faremo qualcosa di pratico, di pratico». «È un romantico», ripeté. «E questo è un male, un gran male, ma anche un gran bene», aggiunse. «Ma è davvero un romantico?» chiesi. «Certamente», disse fermandosi e sollevando il candelabro senza guardarmi. «È evidente. Cos'altro lo spinge a esplorare dolorosamente se stesso? Cos'altro lo fa esistere, per lei e per me?» Thank you.